Stamattina vorrei adorarlo attraverso questo salmo meraviglioso e proprio capire perché possiamo ringraziare e lodare il Signore in qualsiasi circostanza. Anche se la tua circostanza è rossa, puoi usare questo salmo di ringraziamento e lode in ogni circostanza. Quindi guardiamolo insieme, leggiamolo insieme, Salmo 18. Non lo leggeremo tutto, se lo seguite sui vostri cellulari salteremo alcuni versi, se seguite sullo schermo i versi sono già editati. Quindi dal verso 1 il Salmo 18 dice questo: al direttore del coro, Davide dà questo salmo al direttore del coro affinché sia cantato, al direttore del coro di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul. Egli disse, Davide, io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono scosse e scrollate, perché egli era colmo di sdegno. Il Signore tuonò nei cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e carboni ardenti. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi libererò dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani. Poiché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio, comportandomi da empio. Sì, tu fai risplendere la mia lampada. Il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Poiché chi è Dio all'infuori del Signore? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio, il Dio che mi cinge di forza e rende la mia via retta? Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, mi rende saldo sulle mie alture, addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di bronzo. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato. Ho seguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato indietro prima di averli distrutti. Il Signore vive. Sia benedetta la mia rocca, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Perciò, Signore, ti loderò tra le nazioni e salmeggerò al tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al suo re. Usa benevolenza, amore, verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno. Amen. Glorioso, glorioso. Guardate questo salmo di lode e adorazione che Davide dedica al suo Dio. Inizia dicendo: io ti amo, o Signore, mia forza. Possiamo dirlo insieme? Io ti amo, o Signore, mia forza. Ok, non con una cantilena adesso, ma con tutto il nostro cuore, che non siamo da qualche altra parte, a ripetere le cose. Io ti amo, o Signore, mia forza. Questo è come inizia il Salmo Davide, dice: io ti amo. Non il popolo ti ama, i miei padri ti hanno amato, le generazioni ti ameranno per sempre. No, dice al personale. E qui c'è tutta l'intimità, tutta la conoscenza intima che Davide ha del suo Dio. E lo esprime in tenerezza e gli dice: Signore, io ti amo. Signore, io ti amo. E Davide subito mette le prime cose al primo posto. Se non ci fosse questo, noi sappiamo, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, mente e cuore. Se non inizia da qui, se non c'è questa queste fondamenta non si va da nessuna parte. Davide lo sa e lo ha sperimentato. Non è l'amore di qualcun altro, non è l'amore dei suoi padri o una religione, è suo amore. Io ti amo, mio Dio. Io ti amo, oh Signore, dice Davide, esprime subito tutto questo amore. E Davide non solo lo sperimenta e lo vive, ma lo esprime, lo dice, l'abbiamo detto, dà questo canto per essere cantato da tutti. Quindi non si vergogna di questo amore, non si vergogna di esprimere questo amore. È un grande maestro Davide in questo, noi dovremmo imparare da questo. Perché? Perché l'esprimere l'amore alimenta l'amore. Renderlo palese, gridarlo, dirlo, fa crescere questo amore. Mia moglie non si stancherà mai di sentirmi dire a lei ti amo, ti amo. Solo dirlo davanti a tutti adesso fa qualcosa. Sicuramente in lei, non lo so, poi andate a chiedere a lei. Però anche in me, esprimerlo alimenta l'amore. Impariamo ad esprimere l'amore come lo faceva Davide. Vi ricordate? Lui ha danzato seminudo davanti al suo Dio. E quando l'hanno preso in giro, quando sua moglie l'ha preso in giro, Davide come ha risposto? Ha detto io mi umilierò ancora più di questo, perché il mio Dio se lo merita. Io mi renderò ancora più scemo davanti a tutti, perché il mio Dio si merita questo. Esprimiamo e impariamo ad esprimere il nostro amore per il nostro Dio, anche quando non lo sentiamo, anche quando non è un sentimento. Se è vero, se è verità per te nel tuo cuore, se tu puoi dirti è vero, io amo il Signore, anche se è una verità razionale e fredda, esprimila comunque in fede e ti assicuro che i sentimenti seguiranno. Ti assicuro che le emozioni da lì inizieranno ad esplodere. Non sempre prima nasce il sentimento. Se è verità, esprimila. Impariamo da Davide. Davide inizia come meglio non poteva iniziare. Dice il Signore, io lo amo. Lui è mio e io lo amo. E poi dice, oh mia forza. Il Signore è la forza di Davide. E questo lo esprime nei primi due versetti con alcune metafore, no? Con alcune immagini ce le dà. E ve le devo seguire gli appunti. Perché? Perché questa forza che Dio è per Davide, Davide la riconosce in due modi. Cioè questa forza è bivalente. Cioè è una forza sia di protezione, e le parole scudo, rifugio e rocca sottolineano proprio questo. Il Signore per me è scudo, rifugio e rocca, cioè è una forza che mi ripara, che mi protegge dal nemico. No, immaginate lo scudo. Dio per me è la forza che mi ripara, dove io sono tranquillo. Questa è l'immagine, la prima immagine di quello che Dio è, della forza che Dio è per Davide, un rifugio. E l'altra invece non è una forza non è una forza difensiva, cioè di difesa, ma è una forza offensiva che può attaccare il nemico. Ci sono due termini, potente e alto rifugio, potente salvatore e alto rifugio. Queste due parole, questi due concetti esprimono il fatto che Dio non è solo una difesa, ma è anche per lui una forza con la quale riesce ad attaccare il nemico. Potente salvatore letteralmente è corno di salvezza. Ora in italiano questo termine non è che proprio esprime delle cose bellissime, però che cosa significa in questo caso corno? Sta come alle corna di un ariete, no? È una potente arma per un ariete avere quelle corna con le quali attaccare il nemico, sfondare qualcosa, fare qualcosa, no? Questa è l'immagine che Davide ci passa del suo Dio. Dio è una potente arma nelle mie mani con la quale io posso infliggere sconfitta al nemico. Corno di salvezza. E poi dice alto rifugio. E l'alto rifugio ha lo stesso concetto. L'alto rifugio era letteralmente era una città fortificata su una collina. Molto spesso avevano delle torri e queste città sulle colline sicuramente erano di riparo, quindi di difesa, ma non solo. All'epoca di guerra, quando si faceva guerra all'epoca di Davide, queste fortezze erano strategiche, in alto perché erano una forza offensiva. Come? Riuscivi a guardare il nemico che veniva da lontano, riuscivi a, a vedere da dove veniva, chi era, quanti erano, come erano armati, e ti permetteva di fare strategia e di fare una strategia offensiva per infliggere la più grande sconfitta. Quindi un alto rifugio era un arsenale, era come per noi, diciamo oggi, i cacciabombardieri, no? Che vanno, perlustrano e poi attaccano dove fa più male. Davide dice questo del suo Dio: tu sei colui che mi difende, tu sei il mio scudo e tu sei la mia forza, perché mi dai potenza nella battaglia di sconfitta il nemico. Io ti amo, Signore, mia forza. Questo è il Dio di Davide, questo è il mio Dio e il tuo Dio. Possiamo adorarlo insieme? Per un secondo lo adoriamo. Questo è il tuo Dio, lui è forza e lui ti dà questa forza di difesa contro il nemico e di potenza contro il nemico. Lo adoriamo in questo momento. Apriamo i nostri occhi a questa verità e lo adoriamo insieme. Cantate insieme a me. Cantate insieme a me col vostro cuore in questo momento, perché Dio è la nostra forza. Ma Davide non si ferma qui. Davide va avanti e continua il Salmo, in realtà descrivendo la liberazione, no? Quindi ci dà un po' un'immagine di quello che stava succedendo e subito descrive la sua circostanza. E la sua circostanza nel grido d'aiuto era morte, distruzione e spavento. Nei versi 3 e 6 Davide descrive questo: morte, distruzione e spavento. L'inferno stesso descrive, no? Ve lo rileggo qui nel verso 6. Nel verso 5, il soggiorno dei morti, l'inferno stesso, il soggiorno dei morti mi avevano attorniato. Pensate a questa immagine, così la descrive Davide. E in questa situazione, quando i morti e il soggiorno dei morti gli stanno intorno, immaginate l'angoscia, la depressione, la paura, c'è scritto che Davide grida. Davide grida e lancia un grido d'aiuto verso il suo Dio. Invocai il Signore, che è degno di lode, c'è scritto nel verso 3. Gridai al mio Dio, nel verso 6. Davide grida al suo Dio. Grida, come ho detto, in paura, in angoscia, in ansia. Questi nemici erano veri, non erano fittizi. Andatevi a rileggere la storia di Davide. Erano tanti ed erano minacciosi, minacciosi di morte. Non era una favola quella che stava descrivendo Davide. Eppure grida al suo Dio in lode. Avete notato? C'è scritto: invocai il Signore. Quindi Davide dice: io invocai il Signore in quella paura, in quella cosa, io invocai il Signore, fra parentesi, che è degno di lode. Il Signore è degno di lode. Davide, nella sua angoscia, nel suo grido di aiuto, è in grado di dirsi a se stesso: il Signore è degno di lode. Lui mi ha liberato dal leone, lui mi ha liberato dall'orso, lui mi ha liberato dal gigante, lui mi ha liberato da altri nemici e lo farà di nuovo. Lui è degno di lode e guardando a questo nemico che mi sta davanti, lui è degno di lode. Lui è la mia forza. Io a lui grido. Quanta potenza di fede dà a Davide questa affermazione: è degno di lode. Nella mia angoscia io grido in disperazione a lui, ma lui è degno di lode. Questo è quello che Davide fa. E Davide invoca il Signore lodando e il Signore interviene. Verso 7. Allora la terra fu scossa e tremò. Verso 16. Egli tese, Dio tese dall'alto la mano e mi prese. E mi liberò, mi salvò, mi trasse fuori dalle acque. Dio interviene. E questo è quello che descrive adesso il Salmo, Davide, dal verso 7 al verso 45. È un Salmo lungo, è fra i più lunghi. Dal verso 7 al verso 45 Davide descrive questo intervento del Signore. Prima di tutto ci descrive come reagisce il Signore, no? Allora, immaginate, questo è quello che è accaduto. Davide è in preda alla morte, grida al suo Dio in fede. Dio ascolta, l'abbiamo letto, Dio ascolta e fa una cosa. risponde in un modo. Sentite come risponde. Il Signore fa questo. La terra fu scossa e tremò, verso 7. Egli era colmo di sdegno, era arrabbiato, verso 7. Fumo usciva dalle sue narici, verso 8. Abbassò i cieli, addirittura, verso 9. Discese in fitte tenebre, verso 9. Tuonò, verso 17. Scagliò saette. Il Signore, l'aiuto, la forza di Davide, al grido d'aiuto, prima di tutto si arrabbia e si fa nero, nero. Dio, qui l'immagine di Dio, l'omone con la barba bianca, seduto vicino al camino, non ci sta per niente. Qui è nero, qui immaginate piuttosto un soldato armato fino ai denti, arrabbiato, nero. Questa è l'immagine di Dio. Si indigna perché suo figlio, il suo eletto, il suo amato è in pericolo. È in minaccia di morte. E poi, ovviamente, dopo essersi arrabbiato, dopo aver fatto tremare la terra e i cieli, Dio interviene. Tende la mano e lo solleva, lo toglie dalle acque, c'è scritto. Il Signore interviene e salva Davide. E poi ci sono tutti questi versetti, dal 7 al 45, dove c'è una bellissima danza di parole, fatemelo descrivere così, una bellissima danza di parole fra il tu, che è Dio, tu sei così perché tu hai fatto questo, perché tu mi hai dato questo, quindi la danza fra il tu verso Dio a io. Una danza fra il tu di Dio e l'io di Davide. E sentite com'è questa danza. Tu mi hai liberato, tu mi hai tratto fuori, tu ti mostri pietoso, tu sei colui che salva, tu fai risplendere la mia lampada, tu hai allargato la mia via. E perché tu, io, assalgo tutta una schiera, 29, salgo le mura, ho inseguito i miei nemici, io li ho abbattuti, loro mi hanno obbedito a me. C'è questa bellissima danza fra quello che Dio è e quello che noi possiamo essere in Lui grazie al suo intervento. Non è meraviglioso questo? Non riempie il nostro cuore, il tuo cuore di lode? A vedere chi Dio è per te e per me. Questo è il mio Dio, il tuo Dio, nella tua angoscia più profonda, nel tuo rosso più rosso. Dio è una forza. Dio è un rifugio, Dio è uno scudo. Dio è la nostra arma potente. Amen? Riusciamo a vedere questo? È meraviglioso. Il Salmo conclude come non potrebbe concludere altrimenti, conclude in lode. Il Salmo dice, il Signore vive, sia benedetta la mia rocca. Usa il Signore benevolenza verso il suo unto. Davide dice, il Signore vive. In altre parole, che cosa significa questo? Il Signore vive, il Signore è vero. Non è una favola, non è distante, non è il Dio di un altro Dio, non è un Dio al pari degli altri che sono falsi e di legno. Mio Dio è un Dio vero, il mio Dio vive e io lo adoro perché quando ho gridato a Lui, Lui ha scosso i cieli e la terra ed è intervenuto e mi ha salvato. Questa è la proclamazione di lode di Davide. E poi dice, usa benevolenza verso il suo unto e verso tutta la discendenza, tutta la discendenza di Davide. Sappiamo che cosa significa unto. L'unzione era letteralmente un atto fisico dove molto spesso era il profeta a ungere di olio il capo, la testa di qualcuno per rilasciare qualcosa. In questo caso fu Samuele. Vi ricordate che andò da Davide quando ancora era un pastore, lo unse per simboleggiare in un atto pratico la sua elezione, la scelta di Dio come lui, su di lui come re. Davide era stato scelto re al posto di Saul e questa unzione sta a simboleggiare appunto questa scelta, questa elezione di Dio per Davide. E sappiamo che poi Dio ha promesso a Davide un erede per sempre. Ha detto che sul tuo trono, sul trono di Israele, del popolo di Dio, ci sarebbe sempre stato un erede di Davide. E l'erede perfetto, l'erede eterno, l'erede glorioso è Cristo Gesù. Cristo Gesù è descritto come discendente della famiglia di Davide. Lui è il re dei re. Questo è il meraviglioso salmo che conclude in adorazione e lode, in lode e adorazione persino a Cristo Gesù. Ma questo salmo che cosa c'entra con me e con te? Perché abbiamo visto, allora, prima di tutto è il salmo di Davide e su questo non ci sono dubbi. È questo salmo, il salmo 18, ha l'intestazione più lunga. Che cosa significa? La descrizione di chi l'ha scritto, per chi l'ha scritto e perché l'ha scritto. È la più lunga. Quindi non c'è dubbio, questo è un salmo di Davide. E descrive la sua liberazione, la sua storia. E noi diciamo al Signore, grazie, grazie perché sei intervenuto nella vita di Davide, grazie mille. Però un po', dici, vabbè, però a me che... Però... Se leggiamo attentamente questo salmo, se conosciamo Cristo Gesù e chi è Lui per noi, immediatamente scopriremo, e vi invito a farlo, a leggere attentamente il Salmo 18 in preghiera a casa. Se conosciamo Cristo, ci accorgeremo subito che questo salmo calza meglio a Cristo Gesù. Questo salmo sta meglio a Cristo che a Davide. Questo salmo è più il canto di Cristo Gesù che il canto di Davide. Questo salmo è un salmo profetico, predice la vittoria delle vittorie. Lo vogliamo rileggere in questo modo insieme, sia qui che a casa? Guardate, seguo gli appunti. Chi più di Cristo Gesù è stato circondato dalla morte e dalla distruzione? La vita, lui era la vita che è scesa su questa terra e ha assaggiato la morte, è morto per te e per me. Chi più di lui è stato attorniato dalla morte e dall'inferno? Chi più di Cristo Gesù ha gridato al suo Dio, come è scritto nel verso 6, sulla croce, nel momento più difficile? Sul Calvario Cristo Gesù ha gridato, no? Vi ricordate? Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lui ha gridato. Quando, se non nella battaglia di Cristo Gesù sulla croce, Dio si è colmo di sdegno, come è scritto nel 7, no? Chi, più che non in questo caso, della croce, Dio si è arrabbiato contro il nemico e è intervenuto. Ed è intervenuto. Come abbiamo letto nel Salmo, la terra fu scossa e tremò. Sappiamo che quando Gesù spirò ci fu un terremoto sul Golgota. Sappiamo, e Matteo descrive, che tenebre scesero, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese. Chi meglio di Cristo Gesù descrive questo salmo? Di più, chi più di Dio, chi più di Dio rispose a quel grido di trionfo? Chi più se non più per Cristo Gesù? Scusate, mi sono imbrogliato un pochino. Dio rispose a quel grido. Dio ha risposto a quel grido, ha teso la mano e, leggiamo in Filippesi 2, lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Dio per suo figlio, Cristo Gesù. Dio si è mostrato pietoso verso il pio e puro verso il puro. È qui che casta l'asino con Davide. Davide, sappiamo, non è stato sempre pio e puro. Conosciamo la sua vita e gli errori che ha fatto con Betsheba e quant'altro. Chi era puro, pio, in maniera perfetta è Cristo Gesù. Chi più di Cristo Gesù è il suo unto, il suo scelto? Messia significa proprio questo, unto di Dio, scelto da Dio. E unto per cosa? Scelto per cosa? Per evangelizzare i poveri, inviato per guarire quelli che hanno il cuore spezzato, per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista dei ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Questo più di ogni altro è il canto del nostro Signore Cristo Gesù, che in unità perfetta con il Padre, il Figlio e il Padre hanno ottenuto questa vittoria contro il nemico, contro il male per eccellenza, una volta e per sempre. Più di tutto, questo è il canto di Gesù. Il Salmo 18 è il suo canto, è il canto di vittoria sulla morte e sulla morte eterna. È il Vangelo, fratelli e sorelle, questo è il Vangelo, è il canto del Vangelo, della sconfitta del diavolo su quella croce. Quindi, perché questo canto può essere il tuo e il mio canto? Perché è il suo. Se non fosse stato il suo canto, ha voglia noi a cantare, ha voglia noi a cantare in disperazione, ma perché è il suo canto di vittoria, perché lui ha vinto e lo cantiamo insieme, noi abbiamo vinto. Questo è il nostro canto di vittoria e su questo noi dobbiamo porre la nostra mente, a questo noi dobbiamo rivolgere il nostro sguardo. Da oggi, domani, durante la settimana, il mio incoraggiamento, il mio sprono a tutti quanti noi è quando la morte, l'angoscia, le circostanze, la zona rossa e quant'altro diventano pesanti su di noi, rivolgiamo il nostro sguardo. Ci vuole un secondo a dire: Signore, io ti amo, tu sei la mia forza. Signore, io ti amo, tu sei il mio scudo, tu sei il mio rifugio, tu sei il mio liberatore, tu sei la mia salvezza, tu sei la mia alta rocca. In te io mi rifugio. Il suo canto può diventare il nostro, perché lui ha vinto. Lo cantiamo insieme. Il messaggio del Vangelo non è solo per chi non l'ha ancora ricevuto o non l'ha ancora creduto. Se sei qui e non hai mai sentito parlare di Cristo Gesù e la salvezza che Lui è per la tua vita, che il suo canto può diventare il tuo canto, allora non c'è bisogno di la tua voce in arresa a Lui e dire: Signore, io credo. Sì, capito, mi copro. Se non hai mai creduto in Cristo Gesù, lo puoi fare adesso. Ma il Vangelo non è solo per chi non ha creduto, il Vangelo è anche per noi che abbiamo già creduto. Il Vangelo è anche per noi oggi e sempre. Perché la sua vittoria ci permette di vincere. Perché senza il Vangelo predicato a noi stessi ogni giorno, noi non abbiamo speranza. Il Vangelo non è una cosa che fai nel passato e dici: check, fatto. È una cosa che noi viviamo quotidianamente e il Salmo 18 ce lo ricorda. Possiamo adorare insieme. Possiamo adorare insieme al Salmo 18 e l'uno con l'altro ricordarci di queste verità, perché sono tanto vere quanto sulla sedia in cui sei seduto. A proposito, ci alziamo in piedi e inizia ad adorare insieme a me. Si può adorare, sapete, senza musica, senza canto, anche senza parole, solo pensando ad alcune cose, solo pensando ad alcune verità. L'adorazione è così molto di più del canto. Ringraziamo il Signore per il canto, è meraviglioso, ma è molto di più. Quindi riflettiamo su questi concetti, sul fatto che il Signore è per noi un rifugio e una forza. Lui è la nostra forza, Lui è il nostro liberatore, Lui ci ascolta, Lui ascolta il grido della tua voce. E perché Lui ha vinto la morte eterna, tu puoi vincere. Forza, alza la tua preghiera, alza la tua lode a Lui, facciamolo insieme. Signore Gesù, come Chiesa, veniamo e ci arrendiamo a te. Padre, io prego perdono per me stesso, ma anche per ognuno di noi. E chiedo perdono quando abbiamo permesso alle distrazioni, ad altre verità, a cose futili, distrarci da chi tu sei e dalla tua gloria e dalla tua forza e dalla tua potenza. E prego, prego per una stagione, prego per i prossimi 50 anni, affinché di gloria in gloria possiamo sempre più fissare il nostro sguardo su di te. Padre, in maniera radicale, in maniera arresa, Padre, ci arrendiamo a te e vogliamo sempre più di te. Tu sei la nostra forza, tu sei colui che noi amiamo. Gloria a te, nel nome di Cristo Gesù. Amen.